traffico, non c'è guerra, non c'è vento ormai, sulle onde, non c'è un passero, sulle fronde, sono solo, me l'hanno detto, ma non ci ho mai creduto, che il tesoro si trova dentro, ma non l'ho mai trovato, è poco ma sicuro, intanto sono solo, dopo tutto, dove l'albero sa il frutto, giro l'isola con la mente, ma nell'anima non c'è niente, sono solo, l'avevo scritto, ma ho perso il bigliettino, che il bottino si trova sotto, un dubbio malcelato, è poco ma sicuro e sono l'unico, e scavo il mio rammarico, spero si trovi qui quel ramo di basilico che muove il vento, sì, è tutto mio però che cerco non lo so, sono pallido come un'ombra, ho paura ma la vi sgombra, non c'è sangue ormai più che scorre, nel sudore mio sulla fronte, sono dentro il mio tormento e spiego l'accendino, ma non vedo che smarrimento ha un palmo dal mio naso, è poco ma sicuro, forse sono stanco ma ho risorse per cercare Dio con le forze, chiama e scruto l'orizzonte, nessuno mai mi risponde, pioggia e fuoco non vanno opposti, a inferno e paradiso, finché il fosso non sarà aperto e affondo il mio peccato, luccicherà sincero e sono ricco ma ormai tutto quel che ho di colpo non l'ho più. Giro incontro all'infinito, scavo un cerchio, mio destino, piego le gambe, I'm